52, c'est la 52. Un cambio però, a dimostrazione che l'amor materno non è infinito, non esiste. L'amore è un fatto commerciale tra uomo e donna, lo si vede con un chiaro, ma perfino tra madre e figlia. Cioè la madre gli dice, vabbè, tu puoi collegare i miei beni, ma in cambio sappi che tua moglie era eccetera eccetera. Ma lui questo non lo sopporta. Perché non lo sopporta? E in questo senso la figura di questo poveretto, di questo miserabile, diventa così importante. Perché è il suo Dio. E direi, in modo, faccio un paragone di una semplicità assoluta, e sapete, non dico i cristiani, ma insomma gli islamici, no? Se tu gli tocchi Maometto, succede quello che succede, lo vedete continuamente nel mondo, insomma. Se tu tocchi a qualcuno il suo Dio, diventa una bella, eh? E chi è il Dio per Shah? È la donna che ha amato. Guardate bene, insisto su questo punto, che lui è convinto anche in realtà di essere stato amato, però sta comprendendo quello che era suo amore. La cosa importante è il Dio che ama. A quel punto anche un mite come Charles, che quindi lui è difficile immaginare. Ricordate emblematicamente la scena del Paolo quando aveva quella difficoltà a ballare, perché aveva quelle orecchiette, quelle cose lì, la moglie diceva non ballare, lui buono, buono, ha fatto tappezzeria, come una volta si diceva, tutta la sera. Ma le madri sono furbe, più che affettuose, sono furbe, dice, perché a tutte le persone anziane, come ben sapete e come saprete sicuramente, fa piacere avere i miei figli vicino a sé, nel cose che si sentono male per sé, no? E allora la madre, qui per motivi di interesse, che cosa gli dice? Guarda, mi piacerebbe molto avere la bambina in casa, così per te è una liberazione, per lei starebbe meglio, io starei meglio, staremo tutti meglio. E lui per lì acconsente, ma al momento di lasciare la bambina non ce la fa. E perché? Perché la bambina è quello che gli era rimasto del suo Dio. È la reliquia. E quindi non ce la fa. E allora litigano definitivamente. Litigano definitivamente. E tanto nessuno viene più a trovare. Perché quello che dico bene è questo, che la disgrazia quando ti colpisce in modo esponenziale. Nel senso che, ma voi l'avete notato anche nella piccolezza della vostra giovane vita, quando uno ha una fregatura amorosa, tende a entrare in una psicologia depressa per cui spesso ce ne ha un'altra per cui non riesce più a trovare. Se invece uno ha successo, questo successo non vale soltanto per la persona che ti interessa, no, ma aumenta, tant'è vero, ecco perché molte giovani spose e giovani sposi si trovano in guai, perché poi avendo, come dire, la sicurezza affettiva che gli viene dal fatto di essere sposati, a quel punto possono delinquere, è chiaro? Questa sicurezza non l'avevano prima, ma adesso che sono sistemati, no, io con alcuni esempi in questo senso, adesso possono per l'appunto delinquere. Quindi nessuno viene a trovare, prima uno, poi l'altro, poi si va a trovare chi è importante, chi è sempre meno importante, chi è pieno di debiti, ma chi va a trovare? E quindi lui si lega alla bambina, a misura che, a mano che i suoi affetti scomparivano, si stringeva più strettamente, eccetera, di questo. Di fronte a lui appariva fiorente ira nella famiglia del farmacista, che tutto contribuiva a soddisfare Napoleone, vi prego di notare i nomi che ha dato ai figli o meno. Napoleone l'aiutava al laboratorio, Atali per l'intera sera, Atali gli ricamava un berretto greco, vi prego anche di notare il fatto che tutti fanno quello che devono fare, i bimbi fanno ognuno, cioè per esempio il maschietto aiuta il papà, la femminuccia, vedete come tutto, la femminuccia è radicale, non è che la femminuccia aiuta la mamma, no, la femminuccia è una femmina, quindi deve fare quello che fanno i bambini, quindi ricama, Irma, è nata nel frattempo, tagliava delle, più piccola, dei tondini di carta per coprire le marmellate, e Franklin recitava tutto un fiato la tavola pitagorica. E da lui era il più felice dei padri, il più fortunato dei suoi. Era un'ambizione sorta loro, o meno, desiderava la croce. I titoli non li mancavano. Primo, essersi al tempo del Corea segnalato per una dedizione senza limiti. Secondo, aver pubblicato, e a sue spese, differenti opere di utilità pubblica tali, e ricordava la sua memoria intitolata Del Sidoro, fabbricazioni ed effetti, poi più in più osservazioni sull'Afide Laligero inviate all'Accademia, il suo volume di statistica e perfino la sua tesi di farmacista, senza contare che sono membro di parecchie società scientifiche, lo era di una sola. E infine gridava facendo una piroetta: quando non fosse il fatto che mi sono segnalato durante gli incendi, allora Omer si inchinava, si mise dalla parte del potere. Rese segretamente al signor prefetto grandi servizi nelle elezioni, si vendette infine, si prostituì. Rivolse al sovrano, perfino al sovrano, una petizione in cui lo supplicava di fargli giustizia, lo chiamava il nostro buon re e lo paragonava ai leopardi. In ogni mattina il farmacista si precipitava al giornale per scoprire la sua nomina, non arrivava. Allora, non trattenendosi più, fece disegnare nel giardino una aiuola che rappresentava la stella d'onore, con due piccole strisce d'erba che partivano dall'alto per imitare il nastro. Passeggiava intorno, le braccia incrociate, e meditando sulla inettitudine del governo e l'ingratitudine del mondo. La famiglia che fiorisce, questa è la cosa che volevo farvi notare, guardate questi due aggettivi, la perfezione, è fiorente. Fiorente, no? Crescono questi bambini, cresce il lusso, cresce l'agio, cresce la considerazione di cui la famiglia è circondata, e ilare. L'ilarità è qualcosa di, se fate caso, di un pochino diverso dall'allegria. No, l'ilarità è una gioia più profonda, in qualche modo. È uno star bene, è uno stato di benessere, che appunto può dare la ricchezza, il senso della considerazione di cui si è concetta. Fiorente e ilare. Se fate caso, l'opposto della situazione di Charles, che fiorente non lo è, perché vi stiamo dicendo, e ilare, potete immaginare, quantomeno. E tutto andava bene. Ma l'infelicità umana c'è per tutti. Ed è un gran conforto. Cioè che anche i potenti, i ricchi, stiano male. È un gran conforto, no? Però abbiamo convidato che nella sua vita interiore Silvio Berlusconi soffrisse l'inferno. È un mio pensiero dominante, un po' ossessivo. Poi la morte dei suoi figli per accecamento. E avevo inventato di colore. Poi la storia mi ha dato ragione. È stato distrutto, deve essere distrutto, e direi che, insomma, un pensiero reverente a Dio ogni sera, tra disgrazia e Berlusconi, continuo ad avere, insomma, questa è una prova dell'esistenza di Dio, il fatto che Berlusconi sia ridotto. Chiudo questa piccola parentesi personale che mi fa capire quali sono i miei spiriti politici e anche la quantità del mio odio. o bene. Aveva un danno, già, perché capite? Quando una arriva in una posizione da proprio, soffrono l'università, soffrono tutti, i docenti universitari, soffrono tutti. Perché quelli che devono laurearsi indignano i laureati. Ma i laureati vorrebbero, quelli che fanno la carriera, vorrebbero fare la carriera universitaria e vorrebbero diventare dottorandi di ricerca. I dottorandi invidiano quelli che già sono dottori di ricerca, i quali invidiano i ricercatori non confermati, i quali invidiano i ricercatori confermati, i quali invidiano i professori associati, i quali invidiano i professori della prima fascia di straordinari, i quali invidiano gli ordinari, tutti stanno. E tra gli ordinari, no, perché ci sono quelli che sono in sede, cioè vivono dove lavorano, e quelli che sono fuori sede, allora, al limite si potrebbe dire, quelli che sono in sede, professori ordinari, al massimo della carriera, dovrebbero essere felici, ma manco per sogno, perché quelli che sono in sede e lavorano, quindi al massimo della carriera, alcuni sono celebri, vanno in televisione, altri no. Capite? Io avevo, per dimostrare che l'infelicità umana cos'è, un maestro che era noto internazionalmente. A ogni suo libro uscivano 100 recensioni. Le recensioni erano di grande valore, erano vergognosamente leccardesche. Vergognosamente. Lui le guardava quasi con disprezzo, se l'uomo di grande valore. E guardava solo che al numero alla recensione 79 c'era qualcosa di non perfettamente e che comunque le recensioni erano 100 e non 101. Chiaro il concetto? O meno la croce, la legione. La legione è la massima onorificenza istruzione francese, no? La massima onorificenza che si può. La croce in simbolo. Che cosa aveva lui per ambire alla legione d'onore? Assolutamente niente. Come sapete non era nemmeno un farmacista, perché aveva una specie di laurea falsa, per così dire, no? E tuttavia vantava delle pubblicazioni, ma guardate che tipo di pubblicazioni erano. Una era sul Sidro, e quindi insomma non era un argomento poi con una urgente importanza della storia dell'umanità. L'altra era, e qui è lo spirito di Flaubert, l'altra era sull'Afide Lanigero. Voi non sapete che cos'è l'Afide Lanigero? L'Afide Lanigero è un pidocchio delle piante, ecco, e questi erano i suoi titoli scientifici. Diceva che apparteneva a parecchie società scientifiche, ma in realtà lo erano solo, come nei curricula che voi farete per trovare un posto di lavoro in cui, non lo so, avrete avuto una collaborativa così, avrete avuto una collaborazione a un ritrattino del vice sindaco di Grotta Ferrata in un ritrattino piccolo così, e allora voi scriverete nel curriculum collabora a giornali locali, ecco, cosa di questo genere qua, no? Collabora a giornali locali. E a un certo punto le soluzioni sono una, quelle che lui mi ha consigliato nella mia veste di gran maestro, cioè quella di guadagnare come astrozzo. Astrozzo, diventate usurai l'uno con l'altro. Dite le cose che mi hanno dato, cioè. Lei per esempio ha detto che è un problema. No, io la stava anche lì. Cioè cercare di fregare la sua compagna dandole dei soldi, poi aumentare gli interessi. Tu, naturalmente fate gli omaggi al prefetto, al re stesso, lo chiama il buon re, eccetera, e a un certo momento non ce l'ha. Deve disegnare la stella della ragion d'onore, della legion d'onore in casa con maiuola e pensa all'ingratitudine umana. Stiamo parlando non più di amore, avete capito? Stiamo parlando di due cose in cui va a finire la vita: soldi e potere e ambizione. È chiaro il punto? Ma vedete quello che succede adesso. Questo era il capitoletto 54 che si intitola La Legion d'Onore e finisce con Henri IV e comincia dove abbiamo capo. Allora siamo al 55 adesso. Quello che inizia adesso è il 55. Ci siamo? Il 53 era Maruscialle Lenò. Chiaro? Il 52 è la dopo. Il 54 è questo che riguarda me, e te lo intitolo La Legion d'Onore. Adesso siamo al 55 e si intitola, attenzione, La Seconda Scoperta. Per rispetto o per una sorta di sensualità che ti faceva mettere lentezza nelle sue investigazioni, Charles non aveva ancora aperto lo scomparto segreto di uno scrittoio di palissanico di cui Emma si serviva abitualmente. Un giorno, finalmente, si sedette davanti, girò la chiave e spinse la molla. Tutte le lettere di Leon gli si trovarono. Nessun dubbio più questa volta. Le divorò tutte fino all'ultima. Focò in tutti gli angoli, tutti i mobili, tutti i cassetti, dietro i muri, singhiozzando, urlando. Smarrito, folle, scoprì una scatola, la sfondò con un calcio. Il ritratto di Rodolfo gli saltò in faccia, in mezzo a biglietti amorosi sconvolti. Zitti ragazzi. Ci si stupì del suo scoraggiamento. Non riceveva nessuno. Rifiutava anche di andare a visitare i malati. Allora si disse che si chiudeva per bene. Toccando le cose di una persona morta e amata, è come se l'emozione si trasmettesse alle dita. I sensi sono commutatori di emozioni. Vi ricordate quando aveva Emma la lettera di Rodolfo in mano, quella lettera che scricchiolava, e lui tocca gli oggetti della persona scomparsa con lentezza e sensualità, come se fossero vivi questi oggetti. E non avevo ancora aperto lo scrittorio. Una volta io l'avevo in casa, una cosa di questo genere, lo scrittorio di mia madre, c'era uno scomparto segreto. Si metteva un dito dentro, un certo posto, si alzava il dito in un certo modo, si trovava una molla, si faceva scattare la molla e veniva fuori un cassetto che era rivolto sul segreto. E così lui fa. E lì ci sono le lettere di Leo. Allora, questa è la seconda cosa, no? Prima c'era stato l'ipotesi dei rapporti platonici con Rodolfo, ma qui le lettere parlano chiaro. Non solo, trova una scatola, la sfonda con un calcio, la scatola mostra dentro il ritratto di Rodolfo che gli schizza in faccia. E lui è come pazzo. A questo punto si sente il diritto di pazzire. Non vuol più vedere nessuno e nella malevolenza infinita della gente, l'idea fondamentale di Flaubert è quella di Hobbes, il filosofo Hobbes, homo homini lupus, cioè ognuno è un lupo feroce nei confronti del suo alzava sulla punta dei piedi al di là della siepe del giardino e scorgeva con stupore quest'uomo dalla barba lunga, coperto di abiti sordi, cupo e che piangeva gridando mentre camminava. La sera d'estate prendeva con sé la bambina e la conduceva al cimitero. Se ne tornavano a notte fonda, quando non c'era più altra luce sulla piazza che quella che proveniva dall'abbaino di Binet. Tuttavia, la volontà del suo dolore era incompleta. E infatti non aveva intorno a sé una persona che la dividesse. Così faceva delle visite a mamma Le François, la padrona dell'Europa. Così faceva visite a mamma Le François per poter parlare di lei, ma l'albergatrice non l'ascoltava anche con un orecchio, avendo come lui dei problemi. Infatti, Leroux aveva appena stabilito, aveva appena installato le favorite del commercio e Iver, le favorite del commercio, cioè un nuovo sistema, un nuovo sistema di collegamento al posto dell'Hirondelle che gestiva invece l'albergatrice. Omé quindi cerca di impadronirsi anche del sistema di comunicazione da Yonville a Rouen. E Iver era il guidatore, era l'autista della carrozza dell'Hirondelle, che godeva di una grande reputazione per le commissioni, esigeva un aumento di salario e minacciava di passare alla concorrenza. C'è bisogno, quando una persona amata è morta e scomparsa, come già si è detto, di parlare. E qui c'è un problema, con chi parlare? Parlare con degli sconosciuti, ma degli sconosciuti non possono assolutamente sapere quello che è più probabile per una certa persona, ma neanche poter ricostruire dentro la loro mente come erano le persone che abbiamo, la persona che abbiamo amato, com'era. Parlarne con uno sconosciuto, a volte è possibile, più facile parlare in treno, per esempio, con uno sconosciuto, una persona che vediamo lì al momento e poi non che vedremo più. La Le François era l'albergatrice, quindi aveva conosciuto lei e non sapeva di lei più di tanto, ma soprattutto c'è un fatto, che non gliene fregava niente. Perché quando uno è morto, questo è quanto ci dice il Fiore, importa a una persona, dunque al massimo, a nessun altro importa. La stessa bambina, avete visto, nei confronti della mamma, come tutti i bambini. Un po' prima aveva chiesto, ma dov'è mamma, ma dov'è mamma? Allora le davano la risposta che si danno oggi, tutto lì, ai bambini, quando capita che uno muore, ma la mamma è partita, ma poi torna e ti porterà dei giocattoli. Vi ricordate, avevano risposto così, poi la bambina non ha più niente, perché la memoria affettiva dei bambini è molto piccola. A chi parlare? A chi si deve parlare? E poi anche il dubbio che è parlare di una persona che è morta o è scomparsa, cioè si è lasciata, sia utile. Perché parlando spesso si piange e il dolore si rinfocola. Per cui forse la strada migliore sarebbe non parlarne affatto, ma non parlarne affatto sembra come seppellirla una seconda o una terza volta. Madame Le François parla con Charles, ma in realtà per pura cortesia, non condivide assolutamente nulla di quello che lui può dire di lei. E poi non dimentichiamo un'altra cosa, vedi? Charles non è un intellettuale, non è un parlatore, Charles è un poveretto. Cosa può dire di quello che ha di profondo nel cuore? Perché l'amore poi Vediamo il capitolo adesso 56, a questo punto, 56, no? Il prossimo, che comincia con Anshur Kinete Ale, cioè subito, perché non si va, mai. Cos'è per voi? Va bene tutto? Subito dopo la concurrence inizia il capoverso successivo, il capitolo 57. 6 ho detto. Che siete soli? Che ho detto? 56. Un giorno che era andato, titolo. È colpa della fatalità. Punto secondo. Un giorno che era andato al mercato di Angeli per vendere il cavallo, sua ultima risorsa, incontrò Rodolfo. Infallitivo lo scorgendosi. Rodolfo, che aveva soltanto mandato il suo biglietto da visita per la morte di lei, balbettò da principio qualche scusa, poi prese coraggio e anzi spinse la disinvoltura, faceva molto caldo, si era in agosto, fino a invitarlo a prendere una bottiglia di birra all'osteria. Seduto di fronte a lui, masticava il suo sigaro mentre parlava. E Sciara si perdeva in fantasticherie davanti a quel viso che lei aveva amato. Gli sembrava di rivedere qualcosa in lei. Era tutto uno stupore. Avrebbe voluto essere quel tuo. L'altro continuò a parlare di coltivazioni bestiame, concini, e tappava con frasi banali tutti gli interstizi dove poteva scivolare un'allusione. Sharp non l'ascoltava. Rodolfo se ne accorgeva e seguiva sulla mobilità del suo viso il passaggio dei ricordi. Il viso si imporporava poco a poco, le narici palpitavano, le labbra fremevano. Ci fu anche un istante in cui Charles, pieno di un cupo furore, fissò i suoi occhi contro Rodolfo, che in una sorta di paura si interruppe. Ma ben presto la stessa stanchezza funebre riapparve sul suo viso. Non ve ne voglio, disse. Rodolfo era restato muto. E Charles, la testa fra le mani, riprese con voce spenta e con l'accento rassegnato dei dolori infiniti. No, non ve ne voglio più. E aggiunse queste importanti parole, le sole che abbia mai detto. È colpa della fatalità. Rodolfo, che aveva guidato quella fatalità, lo trovò davvero bonaccione per un individuo nella sua situazione, comico perfino, e un po' vigliacco. All'indomani Charles andò a sedersi sulla panchina sotto la pergola. La luce passava attraverso l'intreccio dei rami, le foglie delle viti disegnavano le loro ombre sulla sabbia, il gelsomino lezzava, il cielo era blu, delle cantaridi ronzavano intorno ai cigli in fiore e Charles soffocava come un adolescente sotto i vaghi effluvi amorosi che gonfiavano il suo cuore addolorato. Alle 7 la piccola Bert, che non aveva visto tutto il pomeriggio, venne a cercarlo per la cena. Aveva la testa rovesciata contro il muro, gli occhi chiusi, la bocca aperta, e teneva fra le mani una lunga ciocca di capelli neri. «Papà, vieni!» ella disse. E credendo che volesse scherzare, lo spinse piano piano. Egli cadde per terra. Era morto. 36 ore dopo, su domanda del farmacista, Monsieur Canivet accorse. Lo aprì e non trovò nulla. Quando tutto fu venduto, restarono 12 franchi e 75 centesimi che servirono a pagare il viaggio di Mademoiselle Bovary da sua nonna. La brava donna morì quell'anno stesso. Papà Rouault era paralizzato e fu una zia che se ne incaricò. È povera e l'ha mandato per guadagnarsi la vita in una filanda di cotone. Dopo la morte di Bovary, tre medici si sono succeduti a Yonville senza riuscire ad affermarsi. Tanto Monsieur Homais li ha battuti tutti in breccia. Ha un mucchio di clienti. L'autorità lo blandisce. L'opinione pubblica lo protegge. Ha appena ricevuto la croce della Legion d'Onore. Il colloquio tra Rodolphe all'ultimo vede la solita raccontanza di Rodolphe che con la sua inizialmente impallidisce, ma poi si rende conto che con uno sconfitto del genere nessuno è sconfitto più del confronto. La stessa parola, la sua volgarità in francese con più lo mostra, nessuno è sconfitto più. E lo invita a prendere una birra, e però guardate questo piccolo dettaglio, che parlando mastica il sigaro, segno della sua finezza, segno non solo della sua volgarità, dicendo naturalmente per antifrasi, non solo della sua volgarità, ma anche segno della sua indifferenza. Vi ricordate un altro gesto che aveva compiuto Rodolphe dopo la pesata con il temperino, esattamente. Ma Charles non lo ascolta. Questo non ascoltare di Charles è, mi pare proprio, la grande dignità del vittima. Mi hai sconfitto, mi hai distrutto, la mia vita è finita, ma io posso restare zitto. Un vinto raramente può parlare. Lui sta zitto e lo guarda, e attraverso lo sguardo gli comunica il fatto che non gli importa nulla di quel che sta dicendo. Inizialmente, per la verità, ha un altro pensiero, un pensiero strano e terribile che viene a ognuno di noi quando incontriamo la persona che è stata amata dalla persona che ci ha abbandonato. E allora è come se dicessimo: ma perché non sono lui? Ma perché non sono lei? Oppure in modo più rozzo e più strano: ma che cosa ha meglio di me? Ci sono infinite persone tradite che, guardando la persona con cui andate insieme, si dicono: ma che cosa ha meglio di me? Forse voi stessi della vostra esperienza vi saranno accadute vicende del genere, sicuramente vi accadranno poi nella vita. Ma poi ha la dignità, ripeto, del silenzio che possono avere i vinti e solo i vinti. A un certo momento però si può permettere un cupo furore, come se questo furore non potesse non emanare da lui. Subito dopo però questo furore che emana dai suoi occhi ritorna come prima, assente, e anzi potremmo dire con uno spirito di perdono. No, il perdono ha a che fare con una visione religiosa in fondo, in ogni caso, e lui non è uno religioso. Dice qualcosa di diverso a se stesso: se questo è accaduto, così doveva accadere. È la religione degli atei quella di dire è colpa del fato. Doveva finire così. Rodolf, che mostra la sua rozzezza anche in questo caso, dice: ma come si fa ad accusare il fatto? Sono io che ho fottuto la moglie. E pensa perfino, siccome non solo si è bassi di animo ma si è anche malvagi, pensa che tutto questo significhi che lui è un vigliacco. Ma lui continua ad avere quest'idea. Sai, finita così. Doveva finire così. L'ultima scena è una scena molto forte ultimamente e potrebbe anche sembrare di cattivo gusto se la tensione emotiva a cui siamo giunti non fosse così alta che il lettore non solo la perdona, ma la capisce e non ha alcuna obiezione. Muore sulla panchina. Muore dopo molto, molto bello, dopo questo suo soffocare come un adolescente sotto i vaghi effluvi amorosi. Cioè resta fedele al suo amore fino all'ultimo. E questa è la sua grandezza. Questa è la sua grandezza. Il gesto quasi quiche a noi potrebbe sembrare, ma a quel punto non sembrerà quiche a nessuno, vista la tensione emotiva a cui siamo giunti. Quello della ciocca, vi ricordate, i capelli che era stata tagliata, e noi lo accettiamo. La bambina viene, scopre la sua morte, nessuno si occupa di lui. Viene chiamato il medico 36 ore dopo, gli fanno l'autopsia, pensando che si sia suicidato o che abbia preso qualche veleno involontariamente. Non è così. È morto di cuore, di crepacuore, un infarto. Quando tutto fu venduto, avete presente? Tutto, quindi tutti i mobili erano stati venduti, tutto, la casa, tutto, restava una cifra infima, quella per mandare la bambina da nonna. Ma la nonna muore. I nonni muoiono, i nonni sono anziani, muoiono, e allora la bambina viene mandata da una zia, la quale è povera, e quindi è mandata la bambina a lavorare in una filata di cotone. Questa è la fine di Charles. E il farmacista? Per il farmacista la situazione è opposta. Non è un medico, vi ricordate, un farmacista non può esercitare la professione di medico. Tre medici arrivano lì, ma lui frega loro tutta la clientela possibile. Non solo. È riuscito a ingraziarsi il potere, che come avviene oggi. Come avviene oggi. Il potere quindi lo blandisce e il pubblico lo protegge. Si è creato un mito, o meno, intorno a sé. E alla fine riesce perfino a ottenere la croce della Legion d'Onore. Ottenere la croce della Legion d'Onore è il massimo schiaffo alla miseria che poteva dare o mettere. E la conclusione quindi del romanzo è questa: i buoni perdono e i malvagi